Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. In vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Tempo. Sì, lo state sentendo anche voi, vero? Sincronizziamo i nostri orologini. È tornato a trovarci il professor Roberto Manfredini. Buongiorno professore, fa anche rima. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti voi e agli ascoltatori. Direttore della clinica medica all'Università di Ferrara, è autore di Un tempo per ogni cosa. Perché? Perché insieme al professor Manfredini parliamo di cronobiologia, è la scienza che studia i ritmi che regola il nostro organismo e varie funzioni, e quindi l'intento di questi appuntamenti è quello di farci svelare e capire insieme al professor Manfredini quando e come funzioniamo per funzionare meglio, quali sono i nostri momenti migliori per cogliere, come si dice, l'attimo. Professor Manfredini, è corretto, sintetizzato un po'? È assolutamente corretto, ma credo che ormai lei sia diventata una grandissima esperta di cronobiologia. E non so se i miei orologi sono sincronizzati, ognuno fa un po' quello che vuole. Poi... Senta, professor Manfredini, parliamo del mattino, perché in queste puntate abbiamo deciso di scegliere un po' questa divisione temporale per capire quali sono i momenti migliori al mattino, che cosa succede anche, e quindi magari spiegare perché ci sentiamo al top oppure perché a volte, insomma, ci sentiamo un pochino stanchi. Come approfittare dei momenti in cui siamo leoni e come superare quelli in cui ci sentiamo un po' degli straccetti. Professore, intanto, mattino, il mattino all'ora in bocca, cosa dice la cronobiologia? Dunque, intanto è vero, proverbio classico, diciamo che è vero per chi è una lodola, cioè ricordiamo che dal punto di vista dei ritmi non siamo tutti uguali, ma ognuno di noi ha una sua preferenza individuale circadiana, una bella frase che viene accorciata con un termine molto semplice che si chiama cronotipo. Ebbene, alcuni di noi, un po' come tutti, si accorgono di essere più in forma già la mattina, o invece essere praticamente immuni dal voler andare a letto, ovviamente con degli eccessi, quindi la lodola spinta alla sera si addormenta, fa poca compagnia a tutti, e magari il gufo alla mattina ha bisogno di carburare un pochino, per cui il mattino l'ora in bocca sì, ma prevalentemente perché ha lodola, perché altrimenti dovremmo dire che il caffè, che il mattino ha il caffè in bocca per i gufi e ce ne vuole anche una tanica, però all'ora in cui stiamo andando in onda diciamo che la lodola è già alcune ore che è lì, che lavora e che è pimpante, come faccio io per esempio, e il gufo a quest'ora diciamo che comincia a essere, insomma, a carburare già bene anche lui, insomma. Perfetto, cogliamo l'attimo, ecco, prendiamo sia Valeria Bernardi che in regia la parte tecnica, è gufo dichiarato, lei dice sono gufo da quando sono nata, e becchiamo anche il professor Manfredini che è una lodola, anch'io sono una lodola, Laura Vanossi si è dichiarata lodola, dobbiamo poi verificare. Professor Manfredini, ma ci sono più gufi o allodole? Dunque, intanto diciamo la verità, ci sono più intermedi. Sì. Perché la terza categoria sono gli intermedi, che sono circa l'80%. Però gli intermedi poi hanno una, si dividono con una propensione verso la lodola o con una propensione verso il gufo. Allodole secche e gufi secchi sono circa il 10%, non sono tantissimi, anche perché gli estremi hanno anche dei problemi, fra virgolette, insomma, quindi se facessimo il test, anche chi di noi dice che è una lodola spinta, nella realtà è più tendente all'intermedio con una evidente propensione, ma è giusto così. È giusto così perché ci adattiamo, se no non saremo qua. Infatti, vero, ci adattiamo un po', insomma, facciamo buon viso a cattivo gioco, nonostante gli orologi. Professore, allora, mattino di che cosa possiamo approfittare? Beh, intanto al mattino bisognerebbe sempre ricordarsi di approfittare di un po' di sole, perché ricordando che la luce e in particolare ovviamente la luce naturale è il sincronizzatore principale di tutti i nostri orologi biologici, ma prevalentemente di quello del cervello. Prendere una bella carica di luce naturale, quella del sole, alla mattina, può bastare anche una mezz'oretta, dà già un'impronta fisiologica a come saranno strutturati i ritmi della giornata. Quindi uno magari con un piccolo atto, così che pensa anche relativamente poco importante, invece dà una bella regolata al suo organismo. Quindi un segnale, ne abbiamo parlato, mi ricordo, anche in un'occasione di una puntata di Obiettivo Salute Weekend, in cui lei ci ha spiegato, ha commentato con noi i risultati di uno studio che affermava che chi si espone alla luce di giorno dorme meglio la notte. Assolutamente, proprio perché, così detta così, potrebbe sembrare un paradosso, e invece proprio perché prendere luce al mattino come da piena fisiologia dell'organismo blocca la melatonina, dà la spinta al via delle attività, organizziamo la nostra attività come dovrebbe essere per l'uomo durante le ore diurne e ci aiuta poi ad arrivare a sera, quando questo stimolo luminoso viene meno e arriva il buio, arriva la sera o la notte, ci fa fare una bella dormita, che anche questo è uno dei capisaldi della salute. Quindi insomma, professore, ci sacrifichiamo, quindi oggi magari andiamo al mare, ci mettiamo lì belli spaparanzati, prendiamo il sole, ce l'ha detto lui, ce l'ha detto il professore, che dobbiamo stare a goderci un po' di luce, perché la luce è vita. Professore, quindi una bella carica di sole per dare il messaggio giusto, poi che ci facciamo? Magari come ci organizziamo? Ecco, si può approfittare per fare una bella passeggiata, una camminata veloce, cioè un pochino di attività, chi ne ha voglia. Ma chi anche, io non sono in grado, ma chi ha voglia anche di fare una corsetta, chi ritiene di farlo ed è magari in forma, lo può fare magari appena si alza, quindi lo può fare a digiuno, questo perché brucia un pochino di grassi e ha anche un significato dal punto di vista bilancia, pancetta, eccetera. Dobbiamo ricordarci che la mattina è un momento in cui il nostro apparato cardiovascolare è particolarmente stimolato, perché ci svegliamo dalla notte dove invece l'apparato cardiovascolare era veramente a basso tono, quindi abbiamo un picco di pressione arteriosa, abbiamo la frequenza cardiaca, cioè il numero di battiti del cuore che aumenta, abbiamo le coronarie un pochino più strette, per cui l'apparato cardiovascolare è un pochino stimolato, cioè vuol dire che il ragazzo giovane, la ragazza giovane che vanno a correre o a passeggiare a quest'ora non avranno mai alcun problema. Se lo faccio io, che ho un'età e che ho un po' di fattore di rischio, è meglio che passeggi anziché che corra, perché è meglio che non chieda troppo ad un apparato cardiovascolare che già in quel momento sta lavorando. Messaggio ricevuto. Quindi una corsetta per le allodole, approfitteranno appena al mattino si svegliano, con le indicazioni che lei ha suggerito. Approfittiamo magari del momento del periodo delle vacanze, in cui ci possiamo alzare senza avere il suono della sveglia che invade subito, interrompe il nostro sonno, quindi prendercelo un pochino più con calma, ma sicuramente l'idea di fare esercizio fisico prima di fare colazione può essere un buon consiglio per chi approfitta delle vacanze per mandare giù un po' di pancetta, però si mangia anche, professor Manfredini. Bisogna fare, esatto, poi c'è il momento della colazione, la colazione è un momento importantissimo della giornata, perché ci garantisce quella quota di energia per poi cominciare tutte le nostre attività, e poi perché bisogna sfatare così un po' la convinzione che è un pasto che può essere magari risparmiato se uno ha un po' di problemi di bilancia e dice magari io salto la colazione. In realtà si è visto che saltare la colazione fa ingrassare di più, fa aumentare l'indice di massa corporea, fa aumentare l'IP, quindi proprio è concettualmente sbagliato. Non è una buona idea. È in vacanza, perché no, farsi una bella colazione credo che sia uno dei piaceri della vita. Professore, quali altri suggerimenti ci arrivano dalla cronobiologia per investire in prevenzione e in salute nel momento del mattino, per rendere al meglio e per stare quindi bene? Beh, diciamo che il nostro cervello sta anche particolarmente bene al mattino, nel senso che è molto reattivo, è molto attento, tutte le nostre capacità prestazionali anche di raccolta di memoria a breve termine eccetera, quindi chi è fortunato ad essere in vacanza, se per esempio vuole leggere o fare delle attività insomma che richiedono di essere psicologicamente up, è un ottimo momento, chi invece sta ancora lavorando è un ottimo momento anche per quello, e che per chi deve studiare idem, quindi diciamo che il nostro cervello è up nel corso della mattina, magari a metà mattina un piccolo snack, se si è fatta una colazione non esagerata, ma una buona colazione, un piccolo snackino, un frutto per esempio, siamo in estate. Insomma professore, poi in fondo è vero che il mattino lo rimbocca, perché si possono fare tantissime cose, esatto. Il cervello è sveglio, bruciamo di più se mangiamo colazione, abbiamo tutta la giornata davanti e quindi anche poi il nostro apparato cardiovascolare esce, no? Si mette in funzione per sostenerci. A me il mattino piace molto, io rendo molto di più al mattino che al pomeriggio, poi al mattino ci sono degli appuntamenti bellissimi, alle 11 ad esempio, un'ora stupenda, professor Manfredini, che dice? Credo che sia anche per trattenerlo nella memoria e per non dimenticare nulla di quello che viene detto, credo sia il momento adatto. Soprattutto se magari la mattina non è proprio partita benissimo, voi sintonizzatevi alle 11, dal lunedì al venerdì ci siamo noi. Grazie professor Manfredini, le auguro una buona settimana e le do appuntamento per il prossimo lunedì. Grazie a voi e un caro saluto a tutti. Grazie, buona giornata. Buona giornata. E a proposito di tempo, è tempo di incontrare il nostro Andrea Vitali. Ciao Nicoletta, un saluto a tutti gli ascoltatori che oggi verranno con noi in un luogo di suggestioni assolutamente mitologiche e alla scoperta di un nostro connazionale che diede l'avvio all'invenzione di un prodotto che sono pronto a scommettere ciascuno di noi almeno una volta nella vita ha utilizzato. Fantastico, dacci un dettaglio in più, il luogo, dove andiamo? Il luogo è la mitologica, come dicevo prima, Scilla, che con la prospiciente Cariti, come tutti sanno, massacrò la nave e soprattutto i compagni di viaggio di Odisseo mentre era sulla strada del ritorno. Quindi Scilla è il luogo in cui nasce il calabrese Raffaele Piria. Piria, mi hanno segnalato che nel dialetto calabrese è il vapore che ci avvolge quando apriamo il forno. Questo non c'entra niente, però era una cosa singolare da riferire a riguardo a questo soggetto. Che Piria sarebbe da dire, no? Che Piria, quanta Piria! Quanta Piria! Oh, che Piria! Non lo so. Oh, che Piria sembra un po' bruttino. Vero? Però, perché? Sì, esattamente. Per i lombardi c'è un suono che... Invece, sì. Quanta Piria! Non fare quanta tutta Piria. Questa Piria! Bene, mi fermo qua. Va bene? Perché al di là diciamo dell'ironia, del divertimento, diciamo, questo Raffaele Piria fu un soggetto estremamente serio che diede, come dicevo, l'avvio alla scoperta dell'aspirina, se la vogliamo chiamare così, oppure acido acetilsalicilico, se vogliamo fare menarvanto diciamo di conoscenze chimiche particolarmente precise. E fu un soggetto che avviò appunto gli studi su questa salicina, però la cosa singolare è che non lo fece nella Scilla in cui ebbe i natali, ma dovette emigrare. E dove? E quindi un cervello in fuga, insomma. Un cervello in fuga, diciamo, quindi forse anche un antesignano di questa, diciamo, cattiva modalità che tutti noi speriamo si riduca prossimamente in modo da poter tenere i nostri cervelli nella nostra bella Italia. In ogni caso, il buon Raffaele si trasferisce a Parigi e viene accolto nel laboratorio di Jean-Baptiste Dumas, non saprei dire se ha qualche grado parenti, di parentela col più famoso, no, questo non sono riuscito a verificarlo. In ogni secondo caso, me sì posto... però, che dici? Sì, tutto sommato. Perché no, diciamo, insomma? Perché no, esattamente, lo lasciamo diciamo alla fantasia, all'immaginazione di chi ci ascolta, la cosa importante è che lui viene accolto nel laboratorio di questo Dumas, che ne fece un fidatissimo collaboratore, perché mi intuì insomma le capacità di indagare nei misteri della chimica, soprattutto materia di cui Piria era particolarmente interessato. E lì appunto inizia gli studi su questo prodotto che si chiama, su questa sostanza, che è la salicina. La salicina ha una sua storia abbastanza particolare, cioè importante, perché è conosciuta sin dall'antichità, è presente nelle foglie del salice bianco, nella sua corteccia, tanto per citare qualcosa, già Erodoto nelle sue storie ne parla, ma soprattutto, molto importante per le applicazioni in campo sanitario, è Ippocrate, diciamo il padre nobile della medicina, che ne introduce proprio l'uso terapeutico per controllare, cioè, dolori di varia natura, febbri, e pare anche per controllare i dolori nel corso, diciamo, del parto. Stiamo parlando di epoche in cui c'era ben poco d'altro, diciamo, per controllare, diciamo, questi dolori, e non solo i dolori del parto. Ovviamente all'epoca in cui Raffaele Piria lavora nel laboratorio di Dumas siamo molto lontani dall'antichità, cioè siamo in una fase storica in cui non puoi pretendere a uno che ha la febbre di dire mastica le foglie di salice bianco, oppure beviti la marissima polvere estratta dalla corteccia della pianta per sedare un dolore o far passare la febbre. Siamo nell'Ottocento, che è un secolo estremamente importante per quanto riguarda lo sviluppo della scienza, non per niente è definito il secolo l'età d'oro della scienza. Tanto per fare un esempio clamoroso, è il secolo in cui Alessandro Volta inventa la pila. E quindi anche, diciamo, la farmaceutica non resta indietro, non fa eccezione, e soprattutto interviene in questo campo dell'applicazione, diciamo, umana, anche l'aspetto economico. Eccolo lì. Sì. L'aspetto economico diventa estremamente importante, e per quanto riguarda appunto l'economia, indovina un po' chi si mette di mezzo. Si mettono di mezzo, lascio a te. No, dillo tu. Si mettono di mezzo i tedeschi. Certo. Ogni puntata ne diamo una. Prima i francesi, nell'altra abbiamo bacchettato i francesi. Oggi parliamo dei tedeschi, ma in amicizia, naturalmente. In amicizia, Andrea. Assolutamente. Certo, è la storia che parla, no? Certo, ecco. Arriverà anche il momento degli olandesi, ecco. In questo momento hanno tentato. Seguiteci, ecco, però adesso siamo con i tedeschi che ci mettono siamo, un po'. Esatto. Siamo con i ricercatori tedeschi dell'Università di Marburgo, che riescono a sintetizzare in laboratorio una cosa che molto si avvicina all'aspirina che tutti noi conosciamo, che è l'acido salicilico. Sì. Lo mettono sul mercato, ovviamente a un prezzo 10 volte inferiore a quello dell'estratto della salicina, e sicuramente fanno un po' di fortuna, però la storia praticamente si complica un po'. Bisogna tenere conto che anche questo preparato non è scevro di effetti collaterali, anzi ne ha parecchi, e la storia si complica un po' per una ragione ben precisa. Perché c'è questo altro tedesco, anche lui chimico, Felix Hoffmann, chimico della ditta Bayer, che naturalmente è notissima proprio per l'aspirina, che riesce a fare un procedimento chimico, cioè l'acetilazione dell'acido salicilico. Non chiedermi in cosa consiste. No, ma sai che non mi sarebbe venuta neanche in mente una domanda così intelligente? Ti ringrazio, perché non avrei saputo dare una risposta altrettanto intelligente. Credo magari in anni trascorsi di averlo studiato, ma ahimè l'ho dimenticato. Comunque questa procedura di acetilazione dell'acido salicilico crea un composto che è estremamente efficace e soprattutto riduce in maniera drastica gli effetti collaterali dei composti precedenti. ma ecco lì ritornano, vero? Ritornano, li abbiamo lasciati, ecco, li abbiamo lasciati nella scorsa puntata, adesso ci sono di nuovo loro. Chi arriva, Andrea? Esatto, arrivano i francesi come al solito, no? Alle arrivano ed è polemica perché da una parte i tedeschi sbandierano il primato di questa invenzione, primato che viene contestato naturalmente dai francesi, sì, secondo i quali prima loro sono arrivati con un soggetto che si chiama Charles Guérard, il cui cognome mi lascia qualche dubbio perché non è un cognome a mio giudizio classicamente francese, ha qualcosa di teutonico insomma, sì, nel suono e nella scrittura. In ogni caso costui pare che avesse raggiunto prima dei tedeschi lo stesso risultato. In ogni caso, cioè, come si suol dire, tutto è bene quel che finisce bene, credo, certo, che tu potrai essere d'accordo con me, perché assolutamente, a questo punto ciascuno di noi quando ha una linea di febbre, un dolore muscolare, un dolore osseo eccetera, insomma quando bisogna cacciare via qualche dolore o un po' di febbre, a nessuno importa se poi l'aspirina sia stata creata dal francese, dal tedesco eccetera. Ma il nostro Raffaele Piria? E il nostro Raffaele Piria scompare un po' in questa storia, ma non bisogna dimenticare che senza il primo passo che lui fece nel laboratorio, diciamo, di Dumas, lavorando diciamo sulla salicina, i succedani, coloro che si sono succeduti nel lavorare su questa molecola, non sarebbero riusciti ad arrivare a quella che oggi è l'acido acetile salicilico o la ben più nota aspirina. E quindi credo che a nessuno tutto sommato importi cioè, se l'aspirina sia poi nata in terra francese, tedesca eccetera, perché se oggi saremmo senza aspirina e piangeremmo per i dolori ed emetteremmo quelle stesse lacrime che secondo gli antichi cadevano proprio dalle lunghe foglie dei salici e andando così a formare i fiumi. Ovviamente questa è leggenda, diciamo, è mitologia, ma è un'immagine diciamo, estremamente bella, suggestiva, che si riallaccia tutto sommato all'inizio di questa chiacchierata, cioè a quel luogo mitologico dove Raffaele Piria nacque e da cui partì diciamo, per emigrare in Francia e lì condurre gli studi che hanno portato al risultato che abbiamo cercato di raccontare brevemente, ma si spera in maniera abbastanza esaustiva. Che eleganza, Andrea. Sei partito da Scilli e sei finito con le lacrime che vanno a formare i fiumi. Come perfetto, ma bellissimo. Lacrime che noi piangeremo se non avessimo quella benedetta sostanza che è l'aspirina. Che poi comunque possiamo dire, se non ci fosse stato lui, il nostro Raffaele, magari, no? Questa è un po' la morale della storia, che siamo bravi. Sì, siamo assolutamente bravi e lo saremmo ancora di più forse se riuscissimo a tenere tanti bei cervelli che invece per poter dare sfogo alle loro intuizioni e lavorare quindi con serietà su quello che hanno in mente non dovessero andare sempre all'estero, avendo invece la possibilità in loco di lavorare protetti e soprattutto diciamo, sostenuti nelle loro ricerche. Andrea, allora intanto ringraziamo Carmelo Lauricella che regia la parte tecnica e così c'è anche certo. Andrea Vitali che si unisce a me e poi Laura Vanossi preziosissima in redazione in assistenza. Noi ci sentiamo lunedì con Andrea Vitali, intanto voi passatevi una buona giornata. Andrea, grazie, buona settimana. Grazie a voi. Invece noi ci sentiamo di nuovo domani, stessa ora, stesso luogo, stessa Nico. A domani. È ora di avere un sito internet, è ora di vendere i tuoi prodotti online, è ora di farlo da solo, perché è facile, perché tu puoi, con SuperSite, su aruba.it.